Linee d'ombra di Matteo Caccia. C'era la miccia che saltellava da una parte e dall'altra, velocissima. L'ho preso in mano praticamente e ho provato a spegnerlo, poi mi è esploso sulla mano proprio. Uno dei momenti in cui la nostra goliardia toccò vertici memorabili fu durante la gita di quarta e l'evento mi vide degno protagonista. Storie di hotel, fumogeni e gabbiani in una puntata che si intitola L'hotel degli imprevisti. Le hanno spiegato quelli di Denver presso poco in che consiste il suo lavoro? Si sono tenuti molto sulle generali. Ah, l'inverno qui può essere incredibilmente rigido. Il suo compito quindi è cercare di limitare i danni che ne potrebbero derivare e il deprezzamento conseguente. Quindi, prima cosa, tenere in funzione i boiler, riscaldare le varie parti dell'albergo una al giorno naturalmente, fare le piccole riparazioni necessarie qua e là in modo che non ci si ritrovi poi di fronte a problemi più seri. Beh, se è tutto qui non mi spaventa. In effetti, come lavoro non è pesante. L'unica cosa è che si può sentire un forte senso di isolamento durante l'inverno. Beh, se può farle piacere, quello che stavo cercando, un po' di isolamento, perché sono lì per partorire un romanzo e quindi 5 mesi di pace sono proprio quello che ci vuole. Si intitola L'hotel degli imprevisti, questa puntata di Linee d'ombra, e abbiamo iniziato con un pezzo preso da quel film incredibile che è Shining, in cui insomma di imprevisti in quell'hotel ne succedono diversi, soprattutto in inverno, soprattutto quando arriva quell'isolamento di cui si parla proprio in questo pezzo del film, e Jack Nicholson con la sua famiglia rimangono da soli in mezzo alla neve, in mezzo al nulla per mesi, e appunto gli imprevisti lì accadono. Lo ha raccontato Stephen King e poi Stanley Kubrick, per dire giusto due nomini di quest'epoca che stiamo vivendo, uno della letteratura e l'altro invece della cinematografia. Noi non facciamo letteratura, non facciamo cinematografia, ma raccontiamo storie di vita, raccontiamo qui a Linee d'ombra storie che hanno a che fare con un confine, con un passaggio che può essere un passaggio di stato, di forma, di vita, di dimensioni, un passaggio emotivo, qualunque tipo di storia che abbia in mezzo un confine che viene varcato. Ecco, questo è quello che raccontiamo tutti i giorni qui a Linee d'ombra. Raccontare storie è un modo per provare a dire chi siamo, per provare a ricordare chi siamo. È un esercizio che spesso e volentieri dimentichiamo di fare. Di solito nei mesi estivi, nei mesi in cui si ha un pochettino più di tempo per stare all'aperto, magari per frequentare persone, per fare delle cene, succede, è una sorta di esercizio quasi naturale, che proprio perché storia chiama storia, durante questi mesi o questi giorni, se sono pochi, di ozio, in cui si può avere la testa sgombra dai pensieri quotidiani, allora magari intorno a una tavola, una sera, mangiando un po' di anguria appena affettata e fresca con il cielo stellato sopra di noi, magari a qualcuno viene in mente di raccontare una storia, e se viene in mente a quella persona poi viene in mente anche a noi, proprio perché appunto storia chiama storia. Una storia che ci viene raccontata da una persona vicina ci fa venire in mente una storia nostra. È esattamente la stessa dinamica che accade ai barzellettieri. Poi ci sono persone che le barzellette le raccontano bene, altre che le raccontano male, alcuni che se le ricordano tutte, altre che non se le ricordano. Però di solito, in una sera come quella che avevo descritto, se succede che qualcuno esce con una barzelletta, sicuramente c'è qualcun altro che lo seguirà. Ecco, le storie funzionano in questo modo. Le barzellette alla fine sono delle storie per lo più inventate e divertenti. Noi raccontiamo storie di vita, quindi magari usate queste sere d'estate, quando sarete al mare, in montagna, in campagna, o anche solo a casa vostra, in città, sul balconcino, con vostra moglie, vostro marito, i vostri figli, e verrà voglia di ricordare quella volta. Ti ricordi quando è successo? Ti ricordi quando è accaduta quella cosa? Ah, sai cosa? Mi è venuto in mente di quando. Ecco, quella è una storia. Lì comincia una storia. Usatela. Cercate di ricordare attraverso la vostra memoria quell'episodio che in qualche modo vi racconta e che ha a che fare con una linea di confine. Avete tutto il mese di luglio e di agosto per metterla giù, per scrivercela e per mandarcela, che è lineedombra@radio24.it. Ovviamente il nostro indirizzo è sempre quello, è stato così per tutta la stagione e sarà così anche per la prossima. Noi lo prendiamo e ci facciamo una puntata di questo programma, esattamente come è accaduto con la prima storia che vi stiamo per raccontare. È la storia che ci ha mandato l'amico e ascoltatore Fabrizio. È una storia che parla di hotel, ovviamente, e parla di imprevisti. Benvenuti a Linee d'ombra. Gli anni del liceo sono stati indubbiamente tra i più belli della mia vita, sebbene non certo memorabili per quanto riguarda il rendimento scolastico. Noi maschi della classe eravamo una banda di veri cazzoni. Certo, i risultati erano spesso scadenti per molti di noi. Io, ad esempio, non fui mai bocciato, ma ci andai molto vicino. Uno dei momenti in cui la nostra goliardia toccò vertici immemorabili fu durante la gita di quarta, e l'evento mi vide degno protagonista. Quella primavera le destinazioni prescelte erano Sorrento, Capri e Amalfi. L'anno era il 1995 e di lì a poco saremmo diventati tutti maggiorenni. Alcuni di noi lo erano già. L'obiettivo dichiarato era semplice: divertirci il più possibile, facendoci scherzi ad oltranza. Altri alla nostra età avrebbero forse avuto obiettivi più sensati, come il sesso, le ragazze, ma per queste cose ci sarebbe stato tempo in futuro. Adesso avevamo altre priorità. La preparazione alla gita era stata quanto mai meticolosa. Il mio compagno Pepito, ad esempio, aveva fatto spesa in armeria. Quando me lo disse ci rimasi di stucco. Io manco sapevo che ci fosse un'armeria a Modena. In un attimo la mia stima per lui conobbe un balzo esponenziale. Armeria. Incredibile. Lui sì, che è avanti anni luce. Io avrei mai potuto pensare a qualcosa di tanto diabolico? Stando a quanto mi disse, Pepito aveva comprato miccette, piccoli petardi, fialette puzzolenti, siringhe ed aghi per spruzzare il liquido fetido sotto porte o in buchi della serratura, ad esempio. E poi un paio di fumogeni. Io non ne avevo mai visto uno. Non avevo idea di come funzionassero, né di come fossero fatti, e pensavo che si usassero solo allo stadio. Che cosa avremmo fatto con un fumogeno in gita scolastica? Non lo so. Dopo una movimentata notte di viaggio in treno, durante la quale avevamo utilizzato parte dell'arsenale di Pepito, soprattutto fialette puzzolenti e miccette per rendere più complicato il sonno degli altri compagni relegati in scompartimenti diversi, e una prima giornata tutto sommato tranquilla e molto piacevole trascorsa ad Amalfi, arrivò la prima sera in hotel. Eravamo in albergo a Sorrento, io ero in stanza con Pepito e Tommy, un bel trio di disgraziati, e di lì a poco sarebbe giunto il momento di utilizzare il fumogeno. Tutti i maschi della classe erano abbastanza propensi agli scherzi, prima delle lezioni, durante le lezioni, ovviamente in gita. Direi che io, Pepito e Tommy eravamo probabilmente più deficienti, quindi sì, gli scherzi un po' più pesanti, un po' più cattivi, e così venivano, eravamo noi gli ideatori, diciamo. L'idea era di farsi aprire con l'inganno la porta della stanza in cui dormivano quattro nostri compagni e gettarci dentro il fumogeno con la miccia già accesa, in modo che esplodesse all'interno subito dopo, affumicandoli a puntino. Tommy tentò una prima sortita, ma infruttuosa. Rientrando in camera disse che gli occupanti dell'altra stanza o non avevano voluto aprire la porta o lui non aveva fatto in tempo ad accendere il fumogeno e a gettarlo, esattamente non ricordo. Una questione di timing, comunque, non preciso. O forse era solo un'uscita per sondare il terreno prima dell'attacco vero e proprio. In ogni caso, adesso, occorreva ritentare. Chi va ora? Vado io, rispondo Gagliardo. Mi sento come un soldato che si offre volontario in una pericolosa missione, da cui potrei anche non far ritorno. Un eroe, o forse un grandissimo minchione, pronto ad immolarsi da martire. Tommy mi spiega che l'operazione in sé è semplicissima. Devo accendere la miccia del fumogeno, bussare alla porta dell'altra stanza dicendo di avere bisogno e una volta apertosi uno spiraglio, gettare il fumogeno all'interno e rientrare poi di corsa nella mia camera e lì chiudermici dentro. Facile, dico io. Tommy sente il dovere di spiegarmi che nella improbabile e sciagurata ipotesi che la miccia fosse già accesa, ma loro non dovessero aprire, allora in quel caso basterà prendere la miccia tra due dita e spegnerla. Avrò tempo a sufficienza per farlo, mi dice. Ottimo, rispondo fiducioso. Allora vado, dammi qua. Afferro fumogeno e accendino, mi dirigo verso l'obiettivo designato. La camera destinata a subire l'attacco è sul nostro stesso piano, a una distanza di pochi metri in linea d'aria. Sarà circa mezzanotte, siamo in un piccolo albergo e non c'è anima viva in giro per le scale o corridoi. Mi chino davanti alla porta, origlio. Sento lontane e smorzate le voci di là della porta. Sono ancora svegli e ignari. Inspiro ed espiro alcune volte. Sento un primo accenno di tensione e forse in quel momento comincio a rendermi conto che il gesto che sto per compiere potrebbe anche rivelarsi una grossa cazzata. ma il piano è stato studiato nei minimi dettagli. Cosa potrebbe mai andare storto? Non mi perdo certo d'animo, sento chiaramente di non avere nulla da perdere. È solo un fumogeno, in fondo, mica una bomba. E comunque, Tommy mi ha detto che posso sempre spegnere la miccia all'ultimo momento, no? Busso alla porta, prendo l'accendino e accendo la miccia. La miccia comincia a sibilare e a sfregolare ad un volume inaspettatamente alto. La fiamma, tra l'altro, sembra saltare di qua e di là rapidamente, freneticamente, con movimenti che non trovo affatto rassicuranti. Nel frattempo la porta rimane bella chiusa, provo a bussare di nuovo, forse incito i miei compagni dall'altra parte ad aprire perché ho urgente bisogno di conferire con loro, ma in realtà i miei occhi non si staccano dal fumogeno. Osservo la miccia diventare sempre più corta e vedo che lo sto facendo molto rapidamente. La porta è sempre lì, non si è mossa di un millimetro, né dà segni di farlo di lì a breve, e io sento che devo fare qualcosa subito, immediatamente, se no son cazzi. Spegni la miccia con le dita, mi ha detto Tommy. Ho ricordi confusi di come abbia provato a spegnerla, ma nel panico credo di avere provato con il palmo della mano. Improvvisamente il fumogeno scoppia e il fumo comincia ad uscire copiosamente a fortissima velocità, con una pressione che è assolutamente inaspettata. Io mi trovo inginocchiato di fronte ad una porta chiusa di un albergo di Sorrento, a mezzanotte passata, una mano bruciacchiata e l'altra che impugna un fumogeno che spruzza un denso fumo giallo, fumo che sta rapidamente invadendo il corridoio, rendendo la visibilità quasi nulla. Mi sono ritrovato catapultato dalla calma piatta ad un cataclisma quasi istantaneamente. Mi alzo con il fumogeno in mano, nel panico l'unico pensiero che riesco a fare è che devo sbarazzarmene. Corro verso le scale dove c'è una finestra, la apro e getto fuori il fumogeno. Lo vedo atterrare tra le piante, le erbacce secche. Avrebbe potuto provocare un incendio? Forse, ma in quel momento non mi passa nemmeno per la testa. Mi devo mettere in salvo. Lascio la finestra aperta, mi fiondo giù per le scale. In realtà non so perché non sia tornato subito a chiudermi in camera. Ma scendo di un paio di piani, vedo che al piano terra c'è ancora qualcuno alla reception. Forse anche qualche ospite della sala. Poi scendo un'ulteriore rampa di scale e mi ritrovo nei bagni. Una volta lì mi guardo sconsolato la mano con cui ho astutamente provato a spegnere il fumogeno. Il palmo è in gran parte macchiato di giallo, bordata di nero in corrispondenza dei punti in cui la pelle è strinata. I due colori non se ne vanno nemmeno dopo abbondanti e ripetute abluzioni con il sapone. La bruciatura è moderatamente dolorosa, ma non sembra nulla di grave. Ho una mano indelebilmente colorata di giallo e bruciacchiata, è quasi luna di notte, e in quel momento un intero piano dell'albergo è presumibilmente invaso da fitto fumo giallo irrespirabile. La situazione non è rosea, comincio a pensare al peggio. Se il direttore o qualcuno dell'albergo scendono ora nel bagno, è finita. Ah, ho pensato un po' di tutto. Cioè, ero lì, tra l'altro in pantaloncini corti, maglietta, t-shirt e ciabatte, con una mano bruciata. Niente, è stato lì almeno mezz'ora, secondo me quando è scoppiato il fumogeno era probabilmente dopo mezzanotte sicuro, e sono rimasto in bagno almeno fino a l'una. Fortunatamente non arriva nessuno e infine mi decido a risalire ai miei quartieri. Al piano terra nessuno mi nota, le scale erano visibili dalla hall, quindi per salire o scendere le scale dovevo comunque espormi al rischio di essere visto. Arrivo al mio piano, dove il fumo è finalmente svanito, ma dove è impossibile non notare un'ampia chiazza gialla sul pavimento, di fronte alla porta dei miei compagni, nel punto in cui il fumogeno è esploso. Pepito e Tommy mi aprono la porta, sono visibilmente sollevati nel vedermi ancora a piede libero e senza manette, e ovviamente sono curiosi di sapere dei dettagli su che cosa fosse successo. Dopo averlo raccontato, mi metto a letto un po' turbato. La mattina successiva, nella hall dell'hotel dove ci riuniamo tutti insieme, vissi con apprensione i momenti di attesa prima di uscire ed imbarcarci per Capri. La prof di inglese che ci accompagnava sapeva o sospettava qualcosa? Percepivo nitidamente le occhiate del direttore dell'hotel. Ero convinto che avesse capito chi fosse il responsabile e pensai che ne fosse prova la sua espressione non gentile mentre mi fissava. Ma non mi disse nulla e nel frattempo io tentavo con nonchalance di tenere nascosta la mano ancora macchiata di un bel giallo fluorescente. Passammo poi una splendida giornata a Capri, ma io la vissi con una certa tensione, quasi come se le mie fossero le ultime ore di un condannato a morte. Ero certo che una volta rientrato in hotel, la sera, il bubone sarebbe inevitabilmente scoppiato perché ero convinto che il direttore sapesse tutto e aspettasse il nostro ritorno per farmela pagare. Ma alla fine né il tanto temuto direttore né la prof d'inglese ne fecero parola e con sollievo mi resi conto che questa volta l'avevo scampata davvero bella. Fu l'unica e ultima volta che vidi e toccai un fumogeno. Si intitola L'Hotel degli Imprevisti, la puntata di oggi, e immagino abbiate capito anche il motivo per cui si intitola così. Più tardi ci sarà un'altra storia che parla di imprevisti e di hotel. E questo però è un imprevisto che poteva anche essere evitato, nel senso che tutti sappiamo che cosa succede quando si va in gita scolastica, in età, diciamo, pre-raziocinio, se vogliamo dirla così. Forse un po' tutti ci siamo passati, certo non tutti hanno acceso un fumogeno nel corridoio di un hotel. Ciao Fabrizio, buongiorno. Ciao Matteo. Senti, tu hai un ricordo divertito di quel momento, impaurito, oppure come hai scritto, vabbè, non è mai più successo e quindi è un capitolo chiuso della tua vita? No, sicuramente è un ricordo divertito, perché alla fine è andato tutto bene. Poteva andare molto peggio, perché ho rischiato. Decisamente. Io in particolare, ma anche tutti e tre siamo stati molto fortunati. Ma tu da ragazzo eri un disperato? Capisci cosa intendo? Sì. Oppure no? Oppure semplicemente eri capitato un po' lì per caso con in mano sto fumogeno? No, ero, diciamo, non ero un disperato. Nella classe ci piaceva farci gli scherzi a vicenda e quindi quando si trattava di fare gli scherzi io ero tra i primi e tra l'altro ci piaceva farli anche abbastanza pesanti, cattivi, diciamo. Che fine hanno fatto i tuoi compagni di allora? Allora, Pepito da parecchio che non lo vedo, non lo sento, credo che sia comunque sempre in zona di Modena e spero che riusciremo a fare una ritrovarci. Tom invece vive a New York, si è trasferito a New York, vive lì con sua moglie e tra l'altro ha appena avuto una bimba. Senti, anche tu sei andato via da Modena, vero? Perché adesso ci stiamo sentendo noi da Milano, tu invece dalla Norvegia, dico bene? Sì, io vivo in Norvegia, vivo a Stavanger per la precisione, cioè appena fuori Stavanger, che è nel sud, sì, zona sud occidentale. Ok. E mi sono trasferito qui da quasi 7 anni. Senti, le ragioni per cui ci si trasferisce lontano dal proprio paese sono due, no? Sono o l'amore o il lavoro. Qual è dei due il tuo caso? Esatto, nel mio caso è l'amore. È l'amore, ok. Sono trasferito qua perché mia moglie è norvegese. Dove vi siete conosciuti? Allora, anche qui ci sarebbe da scrivere un po' su una storia, un racconto, perché ci siamo conosciuti in Islanda e ero là in vacanza e tra l'altro... Eri in un hotel, avevi dei fumogeni in mano... No, quello no. In quell'occasione però, no, ok. In quell'occasione no. Ero lì in vacanza con un mio ex compagno di classe, che era proprio nella stanza, che era poi l'obiettivo del nostro attentato col fumogeno. Ah, lui era uno di quelli che era dentro quella stanza là? Esatto. Ok. Esatto, era la prima volta che andavamo in vacanza insieme, tra parentesi. Quella sera stava anche poco bene. Non so esattamente cosa avesse, però so che soffriva di asma e evidentemente i fumi del fumogeno sono entrati anche in camera, perché poi è stato molto male e il giorno dopo è stato tutto il giorno all'ospedale. Quindi un po' mi sento in colpa. Sì. Stiamo parlando della volta in gita scolastica? Quella volta lì, sì, proprio lui è stato male il giorno dopo, infatti... Povero amico Steve, ma mi è dispiaciuto molto, perché era un effetto collaterale che non avevamo previsto. Non avevamo previsto tante cose. Da quella cazzata qualcosa comunque è successo, insomma, oltre alle mani semi bruciate e il giallo sulla moquette del pavimento. Esatto, vabbè, insomma, comunque sì, eri con lui in Islanda e hai incontrato tua moglie. Esatto. Senti, come è cambiata la tua vita? Cioè, che lavoro facevi prima e che lavoro fai adesso? Ho lavorato per alcuni anni in un'azienda, e mi occupavo di controllo di gestione, e adesso invece lavoro come guida escursionistica, quindi facciamo escursioni in montagna tutto l'anno, trekking. Mm-hmm. Quindi sono molto contento, perché adoro la montagna, adoro il trekking, sono sempre in mezzo alla natura, poi abbiamo la fortuna di essere vicini a due tre attrazioni naturali più importanti conosciute della Scandinavia, quindi... Cioè, tra cui c'è anche quel punto, quel belvedere incredibile da cui... Mi ricordi il nome, così magari qualcuno se lo va a cercare? Sì, in norvegese Preikestolen, scritto Preikestolen, in italiano il pulpito, o comunque pulpit rock. Ok, senti, come sta andando in Norvegia rispetto al turismo, all'emergenza sanitaria? Allora, l'emergenza non è stata così grave come in Italia, fortunatamente. L'hanno affrontata bene qui e non ci sono stati molti contagi, e i morti sono stati 250 circa. Okay. E ovviamente il turismo è tra i settori che ne ha risentito di più, quindi adesso siamo io sono, diciamo, in cassa integrazione, ho incominciato a lavorare un po' ultimamente, però ancora i turisti sono soprattutto turisti norvegesi. Adesso stanno riaprendo le frontiere, quindi tra poco speriamo che un po' il turismo riprenda. Hai in mente di tornare in Italia a trovare la famiglia anche, oppure? Sì, sarei tornato prima, ovviamente non è stato possibile. Spero di riuscire per settembre. Adesso sto guardando. Okay. Per settembre cerco di piacerebbe tornare. Quando ci ascolti, Fabrizio? Ci ascolti in podcast? Io vi ascolto a volte in diretta con l'app. Con l'app, sì. Oppure in podcast quando sono fuori coi cani o guido, per esempio. Va bene. Se perdo qualche puntata le recupero. Le recuperi, sempre. Bravissimo, buon gustaio. Sì. Fabrizio, ti ringrazio molto e ti faccio gli in bocca al lupo per tutto, per il lavoro, per l'estate. Grazie a voi e a presto. Grazie a voi altrettanto. Grazie, ciao Fabrizio, buona giornata. Ciao, grazie altrettanto. Well, I'm so lonely, I'll be just so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be just so lonely, baby, I'll be just so lonely, I'll be so lonely, I could die. Siamo stati anche un po' in Norvegia oggi, grazie a Fabrizio, e grazie alla sua storia siamo stati invece a Ischia in un vecchio hotel da gita scolastica, che è uno di quei posti in cui un po' tutti quanti abbiamo lasciato il nostro cuore. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare, sempre qui a Radio 24, sempre qui a Linea d'Ombra. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Linea d'Ombra. In questa puntata, che si intitola L'Hotel degli Imprevisti, la prossima storia che vi raccontiamo arriva dagli Stati Uniti e comincia con una lettera. È una lettera di scuse che l'ospite di un hotel scrive al direttore di quell'hotel, proprio per chiedere perdono per ciò che è accaduto nella sua stanza. La storia non ha a che fare con dei fumogeni, ma ha a che fare con dei gabbiani e del salame. Noi l'abbiamo letta sul Post. State con noi. Gentile Empress Hotel. Questa potrebbe servirvi una richiesta insolita, ma vi scrivo oggi alla ricerca di una grazia. 17 anni fa, una serie di sfortunati eventi fece sì che io venissi bandito dal vostro hotel. Desidero spiegarvi come andarono le cose. Nel 2001 avevo da poco iniziato un nuovo lavoro ed ero anche nella riserva della Marina canadese. La mia nuova azienda aveva organizzato un incontro per i suoi clienti all'Empress ed era il mio primo evento di lavoro. avevo avvisato i miei compagni della marina dicendo loro che stavo arrivando a ovest e mi avevano chiesto di portargli dei Brothers Pepperoni di Halifax. Il Brothers Pepperoni è una specie di salame a fette del luogo. Siccome parlavamo della marina, ne portai con me a sufficienza per un intero bastimento. Nella fretta, avevo riempito completamente una valigia di fette di salame per i miei amici. In parte erano avvolte nella plastica, altre invece erano avvolte nella carta. Avevo preso tutto ciò che i Brothers erano stati in grado di vendermi. Quella valigia fu persa temporaneamente dalla compagnia aerea, riapparve il giorno dopo. Sapevo che le fette di salame non erano andate a male, erano rimaste a temperatura ambiente per un breve periodo di tempo. Sarebbe comunque passato un po' prima che le potessi servire ai miei amici. Per stare tranquillo, pensai che fosse meglio tenerle al fresco. La mia stanza d'albergo era carina, grande, sul lato d'ingresso e al quarto piano. Era ben sistemata, ma non aveva un frigobar. Era aprile però, l'aria era ancora fresca. Il modo più semplice per tenere tutto quel cibo al fresco sarebbe stato quindi quello di lasciarlo vicino ad una finestra aperta. Alzai quindi una delle ante e lasciai i pacchetti sparsi sul davanzale della finestra e su un tavolino vicino alla finestra. Poi uscii per una passeggiata. La passeggiata durò tra le 4 e le 5 ore. Quando decisi di aver camminato a sufficienza, me ne tornai in hotel. Ricordo il corridoio e il momento in cui aprii la porta della mia stanza, trovandoci dentro un intero stormo di gabbiani. Non abbi tempo per contarli tutti, ma dovevano essere almeno 40 ed erano tutti lì, nella mia stanza, a pasteggiare con le fette di salame ormai da un bel pezzo. Nel caso in cui ve lo state chiedendo, i salumi speziati di Brothers Pepperoni fanno cose molto brutte al sistema digerente dei gabbiani. Come immaginabile, la stanza era tappezzata di sterco di gabbiano. In quell'occasione scoprì anche che i gabbiani sbavano, specialmente quando mangiano fette di salame piccante. Avrete ormai in mente quindi la scena. Ora, ricordatevi che ero appena entrato nella stanza, spaventando tutti quegli uccelli. Ecco, solo così potete immaginare quello che sta per accadere. Iniziarono a volare intorno e a sbattere contro qualsiasi cosa mentre cercavano disperatamente di lasciare la stanza attraverso la piccola apertura da cui erano entrati. Altri gabbiani meno svegli stavano cercando di uscire dalla finestra che era chiusa. Il risultato fu un tornado di escrementi di gabbiano, piume, pezzi di salame e uccelli piuttosto grossi che giravano dentro a una stanza d'hotel. Le lampade erano cadute tutte a terra, le tende erano state strappate, il vassoietto col caffè era diventato rivoltante. Mi feci strada tra i gabbiani e aprii il resto della finestra. Buona parte degli uccelli uscì immediatamente. Uno cercò di rientrare per prendersi un altro pezzo di salame e nel mio stato confusionale presi una delle mie scarpe e gliela tirai contro. Sia la scarpa sia il gabbiano finirono fuori dalla finestra. A questo punto era rimasto un solo gabbiano nella mia camera, ma era grosso e non se ne voleva andare. Mentre lo rincorrevo, questo girava per la stanza con un grande pezzo di salame nel becco. In un momento di lucidità, presi un asciugamani e glielo lanciai addosso. Lo fece impazzire, quindi decisi di avvolgergli il telo intorno e di lanciarlo dalla finestra, così com'era. Mi ero scordato che i gabbiani non possono volare se sono avvolti in un pezzo di stoffa. Avvenne tutto molto velocemente e nel bel mezzo del pomeriggio, in un hotel rinomato per il suo tè delle 5. Immagino che fosse diretto esattamente lì, quel grosso gruppo di turisti che venne colpito prima dalle mascarpa e poi da un gabbiano che fortunatamente non si fece nulla e volò via. Ma torniamo al mio piccolo problema di faccende domestiche. La stanza era messa molto male. C'erano diversi danni. Ero stato da poco assunto e stavo cercando di fare buona impressione a un evento così importante. Pensai di fare finta di nulla e di occuparmi del problema molto più tardi. Solo in quel momento mi resi conto che avevo poco tempo per prepararmi prima di una cena importante e che avevo addosso una sola scarpa. Passai da una porta secondaria, scesi per recuperare sia la scarpa sia l'asciugamani che erano finiti in un'aiuola vicino al marciapiede. La scarpa era un disastro. La riportai nella stanza dove avevo chiuso la finestra e l'aria era diventata irrespirabile tra l'odore delle fette di salame digerite e tutto il resto. Entrai in bagno, sciacquai il fango della scarpa, la pulii decentemente, ma ora avevo una scarpa bagnata e scura e un'altra asciutta e chiara. A ripensarci, ora avrei dovuto bagnare anche l'altra scarpa. Invece decisi di asciugare quella bagnata con un piccolo asciugacapelli. Stava facendo il suo lavoro quando si mise a squillare il telefono. Uscii dal bagno per rispondere e di colpo andò via la luce. Saltò fuori che l'asciugacapelli, ancora acceso, si era messo a vibrare ed era infine caduto nel lavandino pieno d'acqua. Non so bene quanta parte dell'hotel rimase senza corrente elettrica, ma a quel punto decisi che era arrivato il momento di chiedere aiuto. Chiamai la reception, chiesi se qualcuno poteva salire ad aiutarmi a sistemare quel disastro. Ricordo ancora la faccia che fece l'addetta quando aprì la porta. Non avevo assolutamente idea di che cosa dirle, quindi le dissi soltanto «mi scusi» e me ne andai alla cena. Quando tornai, le mie cose erano state spostate in una stanza molto più piccola. Io pensai che fosse finita lì, invece in seguito mi dissero che la mia azienda aveva ricevuto una lettera che mi metteva al bando dall'Empress Hotel. Una messa al bando che ho rispettato per quasi 18 anni. Da allora sono cresciuto e ammetto le mie responsabilità per l'accaduto. Vengo ora da voi col cappello in mano per scusarmi per i danni che causai indirettamente e per chiedervi di rivedere la vostra messa al bando. Spero che possiate graziarmi, o perlomeno valutare i miei quasi 18 anni di lontananza dall'Empress Hotel come una pena sufficiente ormai scontata. Grazie molte per la vostra attenzione. Nick Burchell. Questa lettera, questa storia che abbiamo trovato sul post e che aveva un titolo meraviglioso, una storia troppo assurda per essere falsa, comincia con una valigia piena di fette di salame e poi si conclude con dei gabbiani, oserei dire. Questa è una lettera che Nick Burchell ha mandato all'Empress Hotel e la notizia è che in seguito a questa lettera, a questa storia che è uscita sui social, è stata raccontata negli Stati Uniti, ebbene, Nick è stato graziato dall'Empress Hotel e la sua storia è stata ripresa molto in Canada e sui siti di notizie di mezzo mondo. Lui è convinto che parte della grazia sia stata concessa proprio grazie al suo dono per l'hotel, cioè alcune confezioni di Brothers Pepperoni, cioè di quel salame che ha causato tutto quanto quel danno. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi, sperando che non abbiate avuto dei problemi con i gabbiani, torniamo a raccontarvi la nostra storia seriale qui a Linee d'Ombra. Manca molto, c'è sempre più code, siamo fermi al numero 2. Il conta persone ora è a posto. Che fortuna aver avuto un elettricista in coda. Ora su ritorni pure in fila, ma occhio al metro di distanza. Un vero professionista non smette mai di esserlo, soprattutto in momenti come questi. Come Fiat Professional, che ti offre sulla gamma anticipo zero e primo canone a gennaio 2021 da 141 euro al mese. TAN 1,99, tasso leasing 2,08. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione fino al 31 luglio. Info su fiatprofessional.it. Fiat Professional, professionisti come te. Linee d'ombra. Dalla storia seriale che vi stiamo raccontando stiamo non solo apprendendo la storia vera e propria di Antonina Zotti, e soprattutto di suo papà e della sua famiglia. Suo papà era Nicola Azzotti, ma stiamo anche apprendendo dei piccoli dettagli di quello che succedeva nell'Italia rurale, nella Sicilia rurale degli anni di fine anni 40, primi anni 50. La storia, se non l'avete sentita in questi giorni, ve la riassumo brevemente per quanto possibile. Nicola Azzotti era un falegname, era un sindacalista, anche se era molto di più in realtà. Nicola Azzotti era un uomo d'arte, di cultura, era un uomo che suonava strumenti a fiato, che conosceva l'opera lirica ed era soprattutto un uomo che voleva difendere gli agricoltori, voleva difendere i lavoratori. Aveva fondato una cooperativa che si chiamava Cooperativa Agricola San Marco, con la quale sfidò latifondisti, mafiosi, gabellotti per cercare di redistribuire le terre e di rompere quell'antico patto mafioso che da quei tempi, da prima ancora, è instaurato tra i signorotti e tra la povera gente. Ebbene, ci aveva provato e purtroppo la sua fine è stata quella di prendersi 5 pallottole nella schiena mentre rientrava a casa. Era il 1946 e Antonina, che racconta la sua storia, aveva 4 anni. Ebbene, in questo episodio della nostra storia seriale che Mauro Pescio raccoglie giorno dopo giorno e ci racconta giorno dopo giorno, Antonina ci racconta che cos'era per una bambina di quell'epoca il lutto e che cos'era il mezzo lutto. Il lutto è una cosa che conosciamo, forse nelle città non si usa quasi più, si vede sempre meno, ma nei paesi, nell'Italia rurale, diciamo nelle zone quelle interne, come vengono definite, in realtà è un'usanza che esiste ancora, per cui se muore il marito, la donna e i familiari si vestono a lutto o quantomeno mantengono un segno di quel lutto, cioè un oggetto o un capo d'abbigliamento di colore nero. Ecco, in questa storia sono passati alcuni anni dalla morte, pochi in realtà, 2-3 anni dalla morte del padre, e Antonina ci racconta che cosa accade quando sua mamma un giorno le dice: è arrivato quel momento, è arrivato il momento di passare dal lutto al mezzo lutto. Che commovente. Io ho smesso tutto dopo 2 anni e mezzo, e avevo già 7 anni, che 4 anni e mezzo, 2 e mezzo sono 7 anni, però come era usanza a Baucina, o per chi portava il lutto in una certa maniera, quindi per tutti i paesi era così, non si poteva passare da un vestito nero ad un vestito colorato, celeste, rosso, assolutamente no, ma bisognava passare attraverso il mezzo lutto, che significava un vestitino che non era molto colorato, ma che nello stesso tempo non era neanche più nero. Io fui felice quando mamma mi disse questo: è ora che tu vesta il mezzo lutto. E fui felice, ma nello stesso tempo non volevo neanche manifestare a me questa gioia, che era grande, devo dire, perché a me avevano sempre detto che portare il lutto per una persona cara significava rispettarla e volergli bene. Quindi per me essere vestita di nero voleva dire che volevo davvero bene al mio papà. Significava che io lo rispettavo, quindi lungi da me togliermi il lutto. Per me era come dire: non ti voglio bene più. Ero una bambina piccola, non potevo capire fino in fondo il significato delle parole e delle usanze. Dunque accolsi con gioia questa notizia, ma allo stesso tempo ero un po' restia. Ma mamma disse: dai, è arrivato il tempo, gioia mia, e si presentò con un vestitino con dei fiorellini bianchi e rossi. Lo indossai e lei mi segnò l'orlo. Poi imboccai l'uscio e mi allontanai fino a percorrere un bel tratto di strada. Mamma mi faceva con la mano di tornare, ma io facevo finta di non capire e mi allontanavo ancora. Ero tanto felice che volevo condividere questa gioia con altra gente, nel caso mi avessero vista. Proprio nei giorni del mezzo lutto conobbi Francis. Era una giovane donna proveniente dall'America e tornata a Baucina per qualche mese a trovare degli zii. Parlava un dialetto maccheronico. Un giorno io, mentre giocavo, me la vidi alle spalle, perché era una bambina tanto graziosa, sempre linda, molto abile nel gioco, così insomma. E l'essere guardata da questa persona mi sembra una cosa normale, è curiosa, quindi ancora di più mi preoccupavo di essere brava, di essere sempre per quel motivo, e volevo che qualcuno mi dicesse: ma brava. E infatti non tardò questo complimento, anzi le aggiunse: che bella, che bella. La mamma, che era poco lontano da noi, seguiva questa scena. Io le indicai la mamma e iniziarono a parlare. Così scoprimmo l'identità di questa ragazza, capimmo chi era, e anche mamma si presentò dicendo che in America, a Brooklyn, aveva una zia. La ragazza si prese l'indirizzo e parlarono. Mamma parlò del nostro lutto, della nostra perdita, di me e di Pinuccio, rimasti senza il papà. E lei rimase molto colpita e promise che avrebbe portato i saluti alla nostra zia. Disse che avrebbe portato i saluti nostri alla zia. Non perse tempo veramente. Al suo ritorno lei, è come se fosse stato per lei fosse il suo primo pensiero, era andata dalla zia, aveva portato i nostri saluti, ma aveva anche descritto quella che era la nostra situazione, quello che le era saltato agli occhi, questi bambini vestiti in nero, le nostre condizioni, che non ci volevano parole per descriverle. If my friends could see me now, driving round just like a film star, in a chauffeur-driven jam jar, they would laugh. They would all be saying that it's not really me. They would all be asking who I'm trying to be. My friends could see me now, looking out my hotel window, dressed in satin strides and two-tone daisy roots. If my friends could see me now, I know they would smile, sitting in my hotel, hiding from the dramas of this great big world. Grazie ancora ad Antonino Azzotti che continua a raccontarci tramite la penna e la voce di Mauro Pescio, continua a raccontarci la sua storia, una storia che, come vi dicevo, abbiamo trovato nell'archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano, che ringraziamo come sempre ogni volta per tutto il materiale che ci fornisce. Se voi avete voglia di mandarci la vostra storia, se avete voglia di cominciare a mandarcela già per la prossima stagione, per le linee d'ombra che cominceranno da settembre, anzi in realtà da fine agosto, dal 31 di agosto, ebbene, se avete voglia di mandarci la vostra storia, l'email è sempre quella: lineedombra@radio24.it. Noi le prendiamo e ci facciamo un'intera puntata. Io ringrazio Mauro Pescio, ovviamente, ringrazio Luca Micheli, Anita Panizza e Paolo Corleoni, che continuano a fare questo programma, ognuno più o meno con il distanziamento sociale dovuto, sullo schermo, ognuno a casa propria, ognuno con i propri mezzi, e spero che questo programma vi raggiunga bene e vi raggiunga sicuri. Noi torniamo domani puntualissimi a raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!